Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il 15 agosto, alla Smara, dove abitavamo, era consuetudine andare in pellegrinaggio al santuario di Santa Rita di Adiquala, un paesino a 40 chilometri da Smara. Sono le 16:07 minuti, quasi 8 minuti in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi in diretta da Roma, in una splendida Roma, calda e soleggiata, siamo a raccontare storie come facciamo tutti i giorni. Oggi raccontiamo una storia che è una storia particolare, perché ormai se frequentate questo programma un po' lo sapete, se non lo frequentate invece ve lo dico adesso al volo. Capita, chiedendo di raccontare episodi di vita delle persone, che è quello che facciamo noi tutti i giorni e lo rifacciamo in continuazione, se c'è un episodio della vostra vita che in qualche modo sentite che non solo vi appartiene ma vi racconta meglio di altri e avete voglia di condividerlo, ovviamente c'è un programma che è fatto apposta per voi ed è questo qui, è l'indirizzo per mandare una pagina, massimo due, con lo scritto di questo episodio, di un aneddoto, chiamatelo come volete, una storia che vi appartiene, è voi siete qui, @radio24.it, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 16, noi siamo qui a raccontarlo. Così facendo, chiedendo storie come queste, cioè storie che vi appartengono, arrivano per lo più storie molto private, molto intime, che quindi appartengono a quella persona e con la quale cerchiamo di costruire una piccola mappa di questo paese attraverso appunto le storie delle persone che le hanno vissute. Però spesso capita non solo di uscire dai confini di questo paese, ma anche di incontrare un pezzo di storia, della grande storia, attraverso la storia delle persone. Cioè, sono quelli che la chiamano storia con la S maiuscola o la S minuscola, noi semplicemente le chiamiamo storie, ed è il caso della puntata di oggi. Amalia, che purtroppo non siamo riusciti a rintracciare, che è strano perché ormai lo sapete, Margherita Hina riesce a è una sorta di cane da tartufo, se c'è qualcuno da tirar fuori lei lo stana, e invece Amalia non siamo riusciti a raggiungerla, però raccontiamo comunque la sua storia perché è una storia che parla di italiani che sono nati in una zona dell'Africa che era aveva una grossa percentuale di italiani, era l'Eritrea ed era in particolar modo la città di Asmara, e la puntata di oggi è dedicata a loro e a tutti gli italiani che sono nati fuori dai confini nazionali. 349-238-6666, se avete voglia di raccontarci dove siete nati, se siete nati fuori dall'Italia appunto, quanto ci siete rimasti in quel paese, perché siete nati là, sicuramente legato ai vostri genitori, mi sembra abbastanza ovvio, che ricordi avete, se parlate ancora quella lingua, quanto vi è rimasto del pezzo di extra Italia in cui siete nati. 349-238-6666, quando sono a Roma mi dimentico il numero di SMS, Valerio, fortuna che è scritto sullo schermo. 349-238-6666, dicevamo, se siete nati appunto oltre le Alpi a nord o sotto il Mediterraneo a sud, adesso faccio tutta la geografia, est a ovest, insomma, fuori dall'Italia. 349-238-6666. Ma c'è un appuntamento da ricordare, perché l'appuntamento sempre di più si avvicina. Avete presente il live che facciamo a fine giugno ogni anno per festeggiare la stagione che è appena passata? Ecco, quest'anno ne facciamo uno addirittura prima di Natale. La data precisa è il 5 di ottobre, che è una domenica, e non la facciamo a Milano ma la facciamo a Genova in occasione del Salone Nautico di Genova, dove Radio 24 si trova come media partner, si dice, credo, insomma è lì, trasmettiamo da lì, trasmettiamo anche noi, ma c'è questo evento che non è una diretta, è proprio un piccolo spettacolo, un po' nel nostro stile, nello stile di Voi Siete Qui. Abbiamo chiesto storie di mare, sono arrivate tantissime, sono storie veramente che vanno dalle attraversate in solitaria alla traversata col canotto fino al traghetto che porta in Grecia. Ebbene, se avete voglia di sentirle, se avete voglia di venire, ma soprattutto se avete voglia anche di entrare gratuitamente, non solo al live che è gratuito, ma al Salone Nautico il 5 di ottobre, andate in questo momento preciso sul nostro sito radio24.it, scorrete un pochettino verso il pochettino, oddio, orribile, scusatemi, scorrete un po' verso il basso e ci trovate, eccolo qua, il mini sito creato apposta che è Voi Siete Qui Live al Salone Nautico, ci cliccate, compilate il form e voilà, siete iscritti e vi aspettiamo alle 17 del 5 di ottobre del 2014, cioè questo. I primi 150, ci sono solo 150 posti in questo caso, non sono come di solito accade a noi, da noi a Milano, che sono 600 posti, qua solo 150, i primi 150 iscritti, ci potete arrivare anche dal profilo Facebook se volete, abbiamo appena linkato la pagina per l'iscrizione, andate lì, ci cliccate sopra, vi iscrivete e ci vediamo gratis il 5 di ottobre alle 17 al Salone Nautico per raccontare storie di mare. Torniamo alla puntata di oggi, torniamo agli italiani che sono nati fuori dall'Italia, sono cresciuti fuori dall'Italia, poi ci sono tornati o forse no. In questo caso preciso, andiamo in Eritrea, andiamo ad Asmara. Agosto 1951. Avevo 10 anni. Era il compleanno di mia madre. Lei compiva 35 anni esattamente quel giorno e per festeggiare aveva invitato delle sue amiche a prendere il tè nel pomeriggio. Mio fratello aveva già messo le mani avanti. Lui sarebbe uscito prima dal lavoro. Ci avrebbe aspettato al cinema, non sarebbe venuto a casa. Lo avremmo raggiunto là allo spettacolo successivo. Proiettavano il Capataz con Renato Rascel. A lui piaceva moltissimo e non gli sarebbe dispiaciuto vederlo due volte piuttosto che rimanere a casa con il pericolo che le amiche della mamma gli chiedessero di suonargli qualcosa con il violino. Io ero molto seccata, sarei voluta andare con lui, ma non ci fu verso di convincerlo. Il mio malumore aumentava, era la seconda fregatura della giornata. Il 15 agosto all'Asmara, in Eritrea, dove abitavamo, era consuetudine andare in pellegrinaggio al santuario di Santa Rita ad Adikwala, un paesino a una quarantina di chilometri da Asmara. Mia madre però, per paura degli shifta, predoni che attaccavano i viandanti per derubarli, non voleva esporci al pericolo. Così passai il pomeriggio con il muso lungo, chiusa nella mia camera a leggere. E poi, verso le 6, finalmente, anche mia madre ed io ci avviamo verso il cinema per vedere il secondo spettacolo e prendere mio fratello. Avevamo da poco imboccato Corso Italia, quando si sentirono degli spari. Vidi mia madre barcollare, portarsi le mani al volto e il sangue sgorgargli fra le dita. E gridai: «Mamma, mamma, ti hanno fatto male!» Dietro di noi due signori, che in seguito seppi erano il dottor Di Meglio e il signor Santarelli, la sostennero, fermarono un taxi, ci fecero salire tutte e due e ci portarono a clacson spiegato all'ospedale. Ero disperata, avevo una paura tremenda che mia madre morisse. Nessuno mi diceva niente. Da quando eravamo arrivati all'ospedale, mia madre l'avevano portata in sala operatoria ed io ero rimasta tra gente che non conoscevo nella sala d'attesa. I due signori che ci avevano accompagnato stavano parlando con dei poliziotti. Uscii, mi sedetti sulle scale del pronto soccorso fino a quando il signor Santarelli mi raggiunse e, vedendomi pallida e tremante, mi portò nel bar vicino a prendere qualcosa che mi tirasse un po' su. Ricordo che mi fece bere un Fernet. Da quel momento lo odiai. Dopo un tempo che a me sembrò interminabile, arrivò mio zio e con lui andammo a prendere mio fratello al cinema. Anche lui era molto preoccupato perché non ci vedeva arrivare. Quando lo zio gli disse che la mamma era stata ferita e che saremmo dovuti stare dai nonni, lo vidi impallidire e più tardi, nella cameretta, lo sentii piangere. In seguito, i giornali pubblicarono che durante il 13° attentato a Waldab Waldamariam, un politico eritreo contrario al protettorato inglese, era stata colpita una donna italiana, ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I commenti e le chiacchiere i giorni successivi furono molteplici. Ricordo che si discusse molto sul fatto che Waldab Waldamariam camminasse sul marciapiede di fronte e quindi non si capiva come fosse stata colpita mia mamma dall'altra parte. La versione ufficiale fu che il proiettile la colpì di rimbalzo, dopo aver cozzato contro il muro. Questo è quello che io ho pensato fino a qualche mese fa, quando ad un mini raduno degli asmarini ho acquistato il libro Italiani d'Eritrea di Nicolas Lucchetti e ho letto che gli inglesi volevano espatriare il dottor Di Meglio per la sua politica anti-inglese. Decisione che fu bocciata dall'Inghilterra perché pensarono che all'estero avrebbe potuto essere più dannoso. A questo punto viene spontaneo pensare che il bersaglio potesse essere lui che camminava dietro a mia mamma e non Waldab sull'altro marciapiede. Non è cambiato nulla. C'è sempre una bella differenza tra quella che scrivono i giornali e i fatti realmente accaduti. Mi chiedo spesso come questo episodio abbia inciso su di me. Intanto sono diventata fatalista. Mi sono resa conto che mio fratello, anche se più grande di me, era più fragile di me, e mi è rimasta l'angoscia che mi attanaglia ogni volta che sento le sirene delle ambulanze. I saw the sky part like the Red Sea, the world is dirt. the sun crying bleed, the world is getting nervous. I saw my best friend become my enemy, ooh, I'm nervous. Everything ain't what it's supposed to be, you should be nervous. Devo dire che ci sarebbe piaciuto capire anche come è finita la storia da Amalia, no? Sapere come stava poi sua mamma, se si è ripresa, se le cose sono andate bene, però appunto non siamo riusciti a rintracciarla. Ma facendo un po' di ricerca riguardo all'Eritrea, all'Eritrea italiana e agli italiani d'Eritrea, abbiamo scoperto che ci sono diverse persone, diversi personaggi che sono nati là e che hanno fatto parte di questa comunità. Uno tra loro è un attore, uno degli attori più carismatici del teatro, del cinema e della televisione italiana, che è nato proprio ad Asmara, che è Remo Girone, quindi abbiamo deciso di chiamarlo per chiacchierare un pochettino con lui. Remo Girone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Grazie innanzitutto per essere qui. Grazie a lei e grazie alla sua trasmissione e ai suoi ascoltatori. Ha voglia di raccontarci proprio dall'inizio come mai si trovavano i suoi genitori, immagino, ad Asmara, e come sono stati quei 22 anni, giusto? È rimasto 22 anni in Eritrea. Sì, sì. Sì. No, tra l'altro 22 anni in cui non ero mai stato in Italia. Ah. La prima volta che sono venuto in Italia avevo già compiuto i 22 anni, ecco. Certo. E i genitori erano là per lavoro, immagino? No, mio papà era andato perché l'Eritrea è un'ex colonia italiana nel 1935 come militare. Ah. E mia mamma invece erano una famiglia di contadini a cui che erano andati perché davano le terre ai contadini emiliani. Il nonno aveva fatto la prima guerra mondiale e lì davano delle terre ai contadini italiani, insomma. Certo. Non ho mai conosciuto i suoi genitori perché poi dopo quello che è successo è che dopo la fine della guerra, quando insomma l'Etiopia è tornata indipendente agli etiopici, no? Sì. Perché a quel tempo l'Eritrea era una provincia dell'Etiopia, è okay. Tornata agli etiopici e all'imperatore Haile Selassie. Gli italiani che erano lì sono rimasti, una parte sono tornati, una parte sono rimasti, hanno cominciato ad esercitare il lavoro che facevano prima mio padre, il lavoro che faceva prima di essere un militare, no? Invece sì. Mia madre, che lui era un operaio specializzato della Fiat, okay. e quindi un tornitore meccanico. Mia mamma invece era una ragazza, era giovanissima, 19 anni, erano i genitori che erano contadini, quindi da sì, parte insomma, di mamma io ho conosciuto tutti, ecco. Ma da parte di mio padre, della famiglia di mio padre, avevo conosciuto solo papà, ecco. E io quindi sono nato nel 48, un anno dopo che si sono conosciuti e sposati. E la sua formazione, quindi, di fatto, la sua educazione, i suoi primi anni sono in Eritrea? C'erano delle scuole italiane, naturalmente. Io ho fatto un collegio per le elementari, una parte di collegio dei Fratelli Cristiani della Sal, che è un po' come il San Giuseppe a Roma, ecco. E per la seconda parte un liceo statale che si chiamava Liceo Ferdinando Martini, e poi per la terza parte c'era un'università che era collegata all'Università di Bari, dove ho fatto la facoltà di economia e commercio quasi fino alla laurea, perché la laurea bisognava discuterla in Italia e anche l'ultimo esame. Ma quando sono venuto in Italia, siccome avevo già recitato nella filodrammatica universitaria e anche poi ero sempre il bambino a scuola a cui facevano leggere le poesie, ho provato a fare l'esame all'accademia, mi hanno preso, sono entrato e quindi ho deciso di dare sono diventato un attore professionista dopo la scuola, dopo l'accademia. Purtroppo sì. Non ho tantissimo tempo. Ecco, mi dica che ricordo ha di quegli anni? Una cosa particolare, cioè come si ricorda i suoi anni di ragazzo? Io mi ricordo di questi grandi spazi soprattutto, no? ma sono anni molto felici anche, però mi ricordo la grande impressione che poi il grande effetto che si ha venendo, insomma, quando sono venuti in Italia tutti dicevano: hai visto che bella questa terra, questa campagna? A me sembrava sempre un giardino rispetto alla certo. Mi sembrava un orto più che una campagna. Ma tra l'altro ad Asmara, io chiaramente ho guardato attraverso delle immagini su Google, ci sono proprio dei pezzi di Italia lì dentro, cioè sono delle città, architetture italiane. È una città un po' come potrebbe essere Latina, insomma. Era una città costruita durante il fascismo, quindi con tutte le caratteristiche, città, cioè razionaliste, il piano regolatore, certo, di quel tempo, ecco. La temperatura com'era? C'era tanto, tanto... Non c'era mai veramente freddo, massimo era una giacca pesante o una maglia la sera, cappotti, non sapevamo neanche cosa fossero, ma la smara è molto alta. Ah, certo, una... sta sì, molto in alto, oltre 1000 metri sul livello del mare, poi c'è Massau in basso dove invece era caldissimo, certo, al mare che, si poteva andare sul mare. All'interno, ecco. L'ultima cosa, Remo Girone, poi la devo salutare, il rapporto tra gli italiani e gli eritrei com'era all'epoca? Guardi, era io ho molti compagni che eritrei che venivano a scuola, nelle scuole italiane, spesso erano più bravi di noi, più studiosi e più preparati, ecco, le posso dire solo questo, e anche oggi... a volte molto intelligenti. Abbiamo raccontato una storia di un'italiana che era da Smara, abbiamo sentito Remo Girone che l'ha cenato e ci è cresciuto. Grazie ancora. Grazie a lei, arrivederci. Grazie, a presto. A presto. Nel 1885 i primi italiani sbarcavano nel porto di Massawa e proclamavano la colonia di Eritrea. Più o meno per capire meglio la storia di Amalia e anche di Remo, a questo punto, bisogna partire da qui. L'Africa è già divisa tra le grandi potenze europee e gli inglesi, che preferiscono gli italiani ai francesi, permettono a noi italiani di insediarci nella baia di Assab e a Massawa. Asmara è costruita su un altopiano, a 2400 metri d'altitudine, e durante il ventennio fascista torna ad essere sbandierata un po' come uno dei posti al sole che l'Italia ancora possiede. L'Eritrea, rispetto all'Etiopia e alla Somalia italiana, fu la colonia con la più forte presenza di italiani nell'Africa orientale. Nel censimento del 1939, solo ad Asmara furono censiti 53.000 italiani su una popolazione di circa 98.000 persone. La colonizzazione africana partì il 3 ottobre del 1935, proprio dalle basi dell'Eritrea, e l'Abissinia venne conquistata il 5 maggio del 1936. Il 9 maggio successivo tutte le colonie italiane del Corno d'Africa furono unificate da Mussolini nella cosiddetta Africa orientale italiana. La storia di Amalia però si svolge diverso tempo dopo, circa 20 anni dopo. Dopo la fine di Mussolini, passata la Seconda Guerra Mondiale, dopo che nella primavera del 1941 l'Eritrea venne occupata dall'esercito britannico e la comunità italiana, che continua a vivere lì in Eritrea e in particolar modo ad Asmara, inizia ad avere difficoltà a rimanerci. L'Eritrea è rimasta sotto occupazione militare degli alleati fino al 1947 e divenne un protettorato britannico fino al 1952, quando poi le Nazioni Unite la dichiararono federata con l'impero etiope. Nel 1993 l'Eritrea ha ottenuto ufficialmente l'indipendenza. Ancora oggi diversi italiani d'Eritrea, il cui padre o nonno hanno vissuto in quella terra, combattono con la legge italiana perché gli venga riconosciuta la cittadinanza del nostro paese. E io ammetto che prima di leggere la storia di Amalia e approfondire quella degli italiani d'Eritrea, non sapevo che ad esempio Remo Girone fosse nato là, ad Asmara. E alla fine, dalla storia di Amalia, ho capito che, primo, Asmara è un luogo pieno di pezzi di Italia del secolo scorso. Secondo, l'italiano è una lingua che non si parla solo in Italia e nel Canton Ticino, ma qualcuno la parla e la insegna ancora oggi, ancora là. Terzo, il colonialismo non ha fatto un gran bene ai paesi colonizzati. Quarto, il colonialismo non ha fatto un gran bene nemmeno ai paesi colonizzanti. Quinto, Renato Rascel è stato uno dei più grandi di tutti. Degli Algei appena uscito, fresco fresco qui a Voi Siete Qui a Radio 24, arrivano i messaggi degli italiani che sono nati all'estero, soprattutto in Libia, devo dire. Sono nata a Tripoli, ad esempio, Libia, da genitori italiani, non sono più tornata perché mi è proibito. Le mie origini sono siciliane ma nata in Libia. E poi ancora in Valle Cervo a Biella c'è un ristorante albergo che si chiama Asmara, proprio perché il titolare aveva avuto una storia come quella di Remo Girone e di Amalia. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, vi ricordo l'appuntamento 5 ottobre, live al Salone Nautico di Genova. Iscrivetevi attraverso il sito, 150 posti disponibili per entrare gratis anche al Salone Nautico e ovviamente al nostro live. Grazie soprattutto a Valerio che ha diretto la nostra puntata di là dal vetro qui a Roma, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina a Milano, grazie soprattutto ad Amalia, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Alberto, vivo a Spino d'Adda in provincia di Cremona. La storia di domani è la mia e parla di una storia di amicizia e di lavoro. Questa è la mia storia e io sono qui.